Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Corpo dell'uomo accanto a Tyrell identificato per J.F. Sebastian, 25 anni, bianco. Domicilio, appartamenti 3B96. ENEP 46751. Voglio che andiate là. Questo settore è stato chiuso al traffico. Che cosa fa lei qui? Io lavoro, e lei cosa fa? Arresto, ecco che faccio. Sono Deckard, della Blade Runner. 26354, schedato monitorizzato. Attenda, verifico. Ok, verificato. Buona fortuna. La storia che stiamo per raccontarvi non è una storia di fantascienza. Eppure i suoi protagonisti, in un certo senso, non sono completamente umani. Sono uomini normali e insieme speciali. Rappresentano l'anello di congiunzione, il primo coraggioso passo verso un'umanità nuova, in cui corpo e macchine si fonderanno in una cosa sola. Questa è una storia fatta di uomini in carne, ossa e fibra di carbonio. È una storia di cuore e ricerca scientifica, di sport e ingegneria biomeccanica. I suoi protagonisti sono l'esempio vivente della teoria dell'evoluzione di Darwin e ci forniscono con le loro incredibili storie la dimostrazione pratica di come l'ambiente possa trasformare un organismo adattandolo a ciò che lo circonda. I nostri protagonisti sono partiti da una condizione di svantaggio, ma anziché farli soccombere, la natura li ha premiati dotandoli di estro, intelligenza, coraggio e di un paio di gambe nuove. L'estate a Milano sa essere impietosa. È il 3 luglio del 2008 e nonostante sia sera, la sensazione di caldo e di appiccicaticcio non accenna affatto a diminuire. La pur splendida cornice dell'Arena Civica in questa occasione non aiuta. L'anfiteatro napoleonico, inaugurato nel 1807 alla presenza di Sua Maestà in persona, è incastonato come una gemma nel Parco Sempione, il polmone verde del centro di Milano. E l'espressione polmone verde al mese di luglio in una città della pianura padana significa soltanto una cosa: zanzare. Eppure gli spettatori che affollano gli spessi spalti di pietra sembrano incuranti degli insetti e della calura. In quella torrida sera d'estate sono accorsi per assistere alla Notturna di Milano, prestigiosa manifestazione annuale di atletica, e i loro occhi in particolare sono puntati su un giovane corridore sudafricano, poco più che ventenne, ma già adorato dalla stampa e dagli appassionati e non di mezzo mondo. Il suo soprannome è Blade Runner. Il suo nome è Oscar Pistorius. Oscar Pistorius. Oscar è concentratissimo. Nei minuti che precedono la competizione, mastica con metodo una gomma. Non si tratta di un vizio o di un distratto passatempo, ma di un accorgimento che lo aiuta a rilassare la mandibola. Lo scioglimento dei muscoli e delle articolazioni, prima dell'esplosione di energia richiesta da una gara di corsa, è fondamentale. Bisogna rilassare del tutto la mascella e il collo per liberare il movimento pieno delle spalle e delle braccia. Anche la postura gioca un ruolo basilare. Durante la corsa bisogna calibrare l'armonia del movimento e la resa energetica della spinta per potenziarla al massimo. Più si è contratti e aggressivi, più energie finiscono sprecate. Essere rilassati, invece, aiuta a percepire l'istante esatto in cui il piede tocca terra, che poi è lo stesso attimo in cui bisogna dare una nuova spinta per fare una nuova falcata. Ma è difficile restare rilassati in un'occasione simile. Questa sera Oscar si gioca un pezzo importantissimo del suo futuro, la qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2008. Si è parlato di mascella, di spalle, di braccia, di piedi. E sono proprio questi che colpiscono di più se osserviamo il giovane atleta che ci sta davanti. Sembra quasi superfluo ribadirlo, visto che negli ultimi anni Oscar è diventato il paladino di tutti. Al posto dei piedi, Pistorius ha le cheetah, avveniristiche protesi in fibra di carbonio simili a due lame affilate, da cui il soprannome Blade Runner, corridore delle lame. Un atleta disabile, un ragazzo che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe dal ginocchio in giù, nella notte milanese corre per un posto alle Olimpiadi dei Normali, di quelli che viaggiano sui piedi che la natura gli ha dato alla nascita. Si tratta di sfrontatezza o di coraggio? A ben guardare, non c'è molta differenza. Nascere con la pelle bianca in Sudafrica è una fortuna. È vero, l'apartheid è finita negli anni 90, ma certi suoi vecchi retaggi restano ancora lì, pressoché immobili. Le condizioni di vita per i neri sono tuttora difficili e molte delle cose che noi consideriamo basilari, come il diritto all'istruzione, alla copertura sanitaria o anche solo ad avere accesso all'acqua corrente, non sono riconosciute a tutti i cittadini. Nelle periferie urbane, a dire il vero, molti vivono in condizioni di indigenza e non sono nemmeno cittadini a tutti gli effetti. Nascere bianco a Johannesburg nel 1986 significa innanzitutto che la tua è una buona famiglia e che con tutta probabilità non dovrai lottare per procurarti da mangiare, il che però non esclude che tu debba comunque lottare per qualcos'altro. Sono nato con un deficit osseo. Mi mancava il perone, che è un osso che sta tra il ginocchio e la caviglia. Mi hanno amputato le gambe quando avevo 11 mesi e ho avuto il mio primo paio di protesi quando ne avevo 13. Quindi ho cominciato piuttosto presto a camminare su gambe artificiali e questo mi ha aiutato moltissimo a gestire la situazione. La fortuna di essere benestante, la sfortuna di non essere sano. La vita inizia già con una contraddizione bella e buona per Oscar Carl Lennard Pistorius, il futuro corridore senza gambe. Deve essere stato un bello shock per Sheila ed Enke Pistorius, il cui figlioletto di 3 kg e 300 grammi non sembra davvero soffrire di alcunché. Eppure il perone di Oscar, quell'osso che insieme alla tibia sostiene la gamba tra il ginocchio e la caviglia, non è dove dovrebbe essere, anzi manca del tutto. Anche i piedi sono malformati. Gli manca completamente la struttura ossea della parte esterna. Reggersi in piedi in quelle condizioni sarà pressoché impossibile. I medici hanno pareri discordanti, ma non appena i genitori di Oscar prendono coscienza delle condizioni del figlio, iniziano a occuparsi personalmente della questione e decidono senza timore di affidarsi a Jerry Versveld, specialista sudafricano in amputazioni. Versveld sostiene che se avranno il coraggio di affrontare un intervento drastico e amputare a Oscar entrambi i piedi finché ancora piccolo, il bambino imparerà a camminare con le protesi e avrà molti meno problemi. Procedendo all'amputazione subito, prima di compiere i primi passi, Oscar non proverà mai la sensazione di stare sui suoi piedi e non subirà il trauma di doverne fare a meno. Credo che sia stata una decisione difficile per loro, ma hanno certamente fatto la cosa giusta. Oscar, contrariamente alle più fosche previsioni di certi medici, non viene affatto privato di quella pagina di vita sacra rappresentata dai primi passi di un bimbo. Ad appena 13 mesi infila il suo primo paio di protesi. Sono proprio quelle minuscole gambe artificiali a permettergli di correre tra le braccia della mamma, tirare calci a una palla o arrampicarsi su una siepe. Niente sembra poterlo fermare ed è in quei delicati anni dell'infanzia che Oscar sviluppa gran parte della personalità combattente e competitiva che un giorno farà di lui un grande atleta. Impara fin da piccolissimo che niente al mondo è impossibile. Una delle cose che io e i miei fratelli abbiamo imparato fin da piccoli è stato non dire mai non ci riesco. La frase non ci riesco, non lo faccio perché non sono capace, non è mai stata parte del nostro vocabolario. Intorno ai 3 anni, Oscar capisce che i suoi piedi sono diversi da quelli degli altri. Si accorge che quel gesto che per lui è così naturale, quello di infilarsi le protesi ogni mattina quando scende dal letto, è diverso da quello altrettanto semplice e quotidiano che fa suo fratello Carl ogni volta che si allaccia le scarpe. Carl si mette le scarpe, Oscar si mette le protesi. La differenza c'è, ma è tutt'altro che abissale. I signori Pistorius, quando arriva il momento di iscrivere Oscar a scuola, non ci pensano due volte e scelgono di mandarlo alla Constantia Kloof Primary School, la stessa che frequenta già il fratello Carla. Una scuola per tutti, dunque, non una scuola per disabili. Una struttura in cui, nella miglior tradizione sudafricana e anglosassone, tutte le attività sportive all'aria aperta sono considerate tanto importanti quanto quelle che si svolgono in classe. Per Oscar è amore a prima vista. A scuola ho fatto tutti gli sport possibili ed immaginabili. Non ero mica bravo in tutti, ma ci provavo in ogni caso. Calcio e cricket sono gli sport di squadra, più di ogni altra cosa, a dargli la sensazione di far parte di qualcosa di più grande. È proprio grazie a essi che Oscar può sentirsi ancora una volta uguale a tutti gli altri. Thank you. Oscar diventa grande e insieme a lui cresce la sua passione per gli sport. Per l'istruzione superiore sceglie col consenso dei genitori la prestigiosa Pretoria Boys High School, un collegio maschile fondato nel 1901 e particolarmente attento alle discipline che riguardano l'educazione fisica. 6 campi da rugby, 3 da cricket, 2 da hockey, 10 da tennis, 6 da squash, 2 piscine e un poligono di tiro. Per Oscar si tratta di un vero e proprio banchetto. Inizia a giocare a rugby, disciplina che dal punto di vista dello spirito di squadra è un vero e proprio toccasana. Niente lo fa sentire accettato, ben voluto e parte integrante di un gruppo come l'appartenenza alla squadra di rugby del liceo. È uno sport leale, tattico, ma allo stesso tempo coraggioso e fisico. Gli scontri con gli avversari sono all'ordine del giorno e nessuno tratta Oscar con un occhio di riguardo. È lui il primo a non volerlo. Far parte di una squadra significa anche questo: prendersi tutti gli onori e gli oneri del mestiere. Durante il terzo anno, in una partita di rugby, uno dei giocatori della squadra avversaria ce l'aveva davvero con me. Appena ho avuto la palla, mi ha placcato con tutta la forza che aveva. Siamo entrambi caduti ed io mi sono distrutto un ginocchio, i legamenti e tutta la cartilagine. Il bollettino medico è impietoso. Lacerazione dei legamenti del ginocchio sinistro. Per fortuna, Jerry Versveld, il medico che lo cura fin da piccolo, lo rassicura sulle possibilità di recupero. Un paio di mesi di riposo assoluto e un lungo periodo di riabilitazione sono quello che ci vuole per rimetterlo a nuovo. È stato grazie alla riabilitazione che ho dovuto fare per quell'infortunio che mi sono ritrovato costretto ad allenarmi non più su un campo da rugby, ma su una pista di atletica. Lo stretching e la corsa, secondo il dottor Versveld, sono l'unico mezzo attraverso il quale Oscar può pensare di riavvicinarsi al rugby dopo il brutto infortunio. Oscar non è entusiasta. L'atletica e la ginnastica sono discipline solitarie, apparentemente poco congeniali alla sua indole solare ed espansiva. In ogni caso, ci si applica senza lamentarsi troppo, come è tipico del suo carattere. Così lo ricorda Michael Hodgson, direttore del Dipartimento di Sport della Pretoria Boys High School. Oscar era il tipo di ragazzo che si adattava a qualunque situazione. Allenandosi con l'unico scopo di tornare a giocare a rugby, l'atletica comincia pian piano a entrargli nel sangue. Fino a quel momento l'idea della corsa fine a se stessa era sempre stata lontana dalla sua sensibilità e le protesi che utilizzava inoltre erano troppo pesanti per consentirgli di correre in tutta agilità. Le vecchie gambe artificiali in legno e fibra di vetro, però, hanno prodotto un piccolo miracolo. Hanno rafforzato di parecchio la sua muscolatura. Adesso quelle gambe così bistrattate e menomate, corredate dalle giuste protesi da corsa, sono più esplosive di due razzi. È stata davvero una sorpresa per me. Non avevo mai considerato di poter essere bravo in uno sport come l'atletica. I suoi medici e fisioterapisti se ne accorgono immediatamente. Quello per l'atletica è un talento innato, tanto esplosivo e sorprendente da infrangere i record esistenti per la sua categoria. Un po' per gioco e un po' per sfida, il suo allenatore lo iscrive al campionato sudafricano per disabili. Oscar ha un tale successo da aggiudicarsi anche l'accesso nell'estate del 2004 alle Paralimpiadi di Atene. Pistorius è nella corsia numero 4 per il Sudafrica. Tutto è pronto ad Atene per la finale dei 400 metri. Oscar è pronto a battersi, a volare più veloce del vento. Ha solo 18 anni e intorno a lui ci sono atleti molto più esperti e navigati. Dalla sua Oscar ha tanto coraggio e uno splendido paio di protesi in fibra di carbonio, le Cheetah Flex Foot, pronte a fendere l'aria come due lame, Blade Runner per l'appunto. Oscar Pistorius, has the Cheetah Flex Foot. Oscar Pistorius con le sue protesi Cheetah sembra avere le ali ai piedi e ha in mano la gara. Eccolo all'ultima curva. Oscar Pistorius è nettamente in testa e si appresta ad affrontare il rettilineo finale. Gli ultimi 90 metri di gloria. Il sudafricano sta per portarsi a casa una medaglia d'oro. Eccolo, ha vinto! Diamo un'occhiata al suo tempo. 47,51, ha battuto il suo record personale. Quello alle Paralimpiadi è un vero e proprio trionfo. Da qui in avanti per Oscar tutto si muoverà alla velocità della luce. Al rientro in Sudafrica il suo nome è su tutti i giornali, ma insieme alla fama, ai riconoscimenti, agli sponsor e alle opportunità è in arrivo anche una buona dose di grattacapi. I should run. Destini Incrociati sta seguendo da vicino la carriera di Oscar Pistorius, giovanissimo e coraggiosissimo corridore che ha trionfato alle Paralimpiadi di Atene 2004. In Grecia ha conquistato ben 3 medaglie d'oro ed è riuscito a stabilire il nuovo primato mondiale per la sua categoria, quella degli amputati bilaterali. Quando ho capito di aver stabilito il nuovo record mondiale è stato davvero uno shock. Non ci potevo credere. È stato sconvolgente. Ed ero molto, molto felice. Ma la felicità di Oscar al rientro in Sudafrica è offuscata dalla notorietà improvvisa che lo investe. Pistorius diventa suo malgrado il cocco prediletto dai giornalisti, nonché il paladino degli atleti disabili. Può darsi che sembri un procedimento lineare ai nostri occhi. Un corridore amputato fa incetta di premi e diventa il simbolo di chi, come lui, ha subito una menomazione ma non per questo ha scelto di gettare la spugna. Eppure, il circuito sportivo per disabili, per Pistorius, rappresenta una relativa novità. Fin da piccolo, lui è sempre stato abituato a giocare e fare sport non con ragazzi simili a lui, che partono da una manifesta condizione di svantaggio. Oscar si è sempre battuto con avversari normodotati, ed è per questo che ha sviluppato in maniera del tutto naturale il suo spirito combattivo, alla costante ricerca di un miglioramento e di una sfida contro se stesso e i propri limiti. E ancora Michael Hodgson, direttore del Dipartimento di Sport della Pretoria Boys High School, a ricordare il suo atteggiamento. Lui voleva essere trattato come un ragazzo normale. Se fosse stato giudicato come un ragazzo normale, avrebbe semplicemente dovuto sottostare alle regole che valevano per tutti gli altri compagni. Avrebbe dovuto allenarsi, partecipare alle qualificazioni. Paladino controvoglia dei disabili e penalizzato per la sua volontà di essere normale. La sua partecipazione a competizioni internazionali del circuito dei normodotati comincia a infastidire svariati giornalisti. Non solo la stampa comincia a sollevare dubbi sulla correttezza delle sue performance, ma ci si mette anche la IAAF, la International Association of Athletics Federations, che emette un lapidario comunicato che sembra scritto apposta per Oscar. La IAAF proibisce l'uso nella corsa di vantaggi tecnici atti a migliorare le prestazioni. È espressamente vietato l'impiego di ogni elemento tecnico che garantisca un vantaggio sugli atleti che non utilizzano lo stesso strumento. Lo strumento, senza tanti giri di parole, sono le protesi CITA usate da Oscar, che gli regalerebbero vantaggi ingiusti rispetto agli atleti che corrono sulle proprie gambe. C'è un solo uomo che può aiutare Pistorius a scagionarsi dalle assurde accuse di essere avvantaggiato, ed è un uomo che di protesi ne sa qualcosa. Il suo nome è Hugh Hare. Hugh Hare. Sono diversi gli elementi che concorrono a fare di Hare l'uomo giusto per la causa di Pistorius. Innanzitutto è un grande appassionato di sport, uno scalatore per la precisione. Ho iniziato ad arrampicare quando avevo 7 anni. Mi sono innamorato di questo sport molto in fretta e ho sempre fatto i salti mortali per cercare di arrampicare almeno un po' tutti i giorni. Ultimo genito di un costruttore edile, Hugh Miller Hare cresce in una fattoria di Lancaster, in Pennsylvania, con 2 fratelli e 2 sorelle. In una zona popolata da una grande comunità Amish, religione che rifiuta la modernità e vive ai margini della civilizzazione, l'agricoltura e l'artigianato sono nel destino della maggior parte dei ragazzi del posto. Aspettando di vedere quale dei due gli sarebbe toccato, Hare dedica gran parte del tempo alla sua passione, il free climbing. La passione di Hugh per la montagna è tale da non temere nessun freno. Non c'è condizione meteorologica che, per quanto proibitiva, possa levargli dalla testa l'idea di scalare una vetta. È il gennaio del 1982, quando Hugh e un suo amico guidano fino al New Hampshire per un'escursione sul Monte Washington. Arrivano al rifugio che è notte fonda. È prevista una bufera per il giorno seguente, ma la scalata che hanno in programma è lungo un versante sicuro e dovrebbe richiedere solo poche ore di cammino, o almeno così credono. La tormenta, invece, si rivela tra le peggiori mai viste in quella zona. I soccorsi impiegano 4 giorni per ritrovare i 2 amici ormai praticamente assiderati. Hugh ha i piedi congelati e i medici non hanno scelta. Devono amputargli entrambe le gambe pochi centimetri sotto il ginocchio. e tanti saluti alla passione per il free climbing. Il medico che mi faceva la riabilitazione mi disse che non sarei mai più stato in grado di arrampicare. Ero distrutto. Ecco il secondo elemento che fa di Hugh Herr l'uomo perfetto per aiutare Pistorius. È un uomo che combatte contro e con la sua disabilità. E poi, come Oscar, è uno che non si dà mai per vinto. L'idea di smettere di arrampicare non lo sfiora nemmeno per un istante. Mi sono messo a studiare delle protesi che potessero penetrare il ghiaccio o la roccia, consentendomi nuovamente di arrampicare. Per sostituire le banali protesi che gli forniscono all'ospedale, Herr, durante i duri mesi della riabilitazione, si fabbrica da sé dei marchingegni avveniristici, concepiti più per scalare che per camminare. Una decina di anni più tardi, dopo una laurea in medicina e una in ingegneria all'MIT, il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e dopo un dottorato in biofisica ad Harvard, Herr si ritrova a dirigere il Biomechatronics Research Group dell'MIT, uno speciale team che riunisce i migliori esperti di biomeccanica del pianeta. Diventare uno dei luminari mondiali delle nuove tecnologie è sembrato a Herr il passo più astuto da fare per risolvere le sue questioni in sospeso. Se il suo destino deve essere quello di un amputato bilaterale, Hugh vuole per sé il meglio che la scienza può offrirgli. Uno sportivo, un disabile, uno scienziato. Tre cose in una persona sola. Tre componenti perfette per aiutare Oscar Pistorius a riprendersi il suo diritto a gareggiare. Oscar si rivolge al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, per chiedere di riesaminare il suo caso sulla base di una seconda opinione, un secondo parere medico che confuti la tesi della IAAF. E chi, meglio di Hugh Herr e della sua equipe dell'MIT, può fornire un parere in merito? Pistorius si trasferisce negli Stati Uniti, dove viene sottoposto a test di ogni genere, prove di accelerazione, prove in cui si misura il massimo consumo di ossigeno in pista a velocità differenti, prove di resistenza e studi approfonditi sul comportamento strettamente meccanico delle protesi durante la fase di corsa. Gli studi condotti da Herr, a differenza di quelli dei tecnici della IAAF, sono molto approfonditi e tengono conto di una serie pressoché infinita di variabili. I risultati dei suoi test sono gli unici in grado di ribaltare la sentenza della Federazione Internazionale. In un certo senso si è trattato di discriminazione. Quasi non volevo, non potevo credere alle loro parole. Dicevano cose come correre con quelle protesi è come avere un razzo propulsore in spalla. Ma protesi come le mie vengono usate da una quindicina d'anni e nessun atleta si è mai lontanamente avvicinato ai tempi degli atleti normodotati delle Olimpiadi o dei mondiali di atletica. Prima, un atleta disabile lotta per emergere grazie a una disciplina sportiva. Lo fa per migliorarsi e per dimostrare a se stesso di essere abile e non disabile. Poi, una volta raggiunte le vette in quello sport, si ritrova di fronte a un muro. I suoi sforzi vengono vanificati e addirittura derisi. Disabile, quindi svantaggiato, e allo stesso tempo avvantaggiato dalla sua stessa disabilità. La lotta di Oscar Pistorius per trovare il suo posto nel mondo è lunga e in salita. E altrettanto in salita è la strada per le qualificazioni alle Olimpiadi di Pechino. Destini incrociati. Oscar Pistorius è un ragazzo di 20 anni, un atleta la cui specialità è la corsa, soprattutto i 200 e i 400 metri. È anche, incidentalmente, un amputato bilaterale che sfreccia in pista grazie all'uso di protesi in fibra di carbonio, le Cheetah Flex Foot. Per lui non si tratta di protesi, quelli sono in tutto e per tutto i suoi piedi. Quelli veri, quelli in carne ed ossa, non li ha mai nemmeno conosciuti. C'è chi mi chiede com'è avere le gambe artificiali. Io rispondo sempre che non lo so, perché non so come ci si senta ad avere le gambe. Provateci voi a spiegarmi come ci si sente ad avere le gambe, poi forse a quel punto io riuscirò a spiegarvi come ci si sente a portare le protesi. Il sogno di Oscar è quello di competere con gli altri atleti normodotati alle Olimpiadi di Pechino 2008, ma la Federazione Internazionale di Atletica gli ha impedito di fatto di partecipare anche solo alle qualificazioni. La ragione? Oscar sarebbe avvantaggiato rispetto agli atleti normali. In pratica hanno detto che io ho un vantaggio del 34% rispetto agli altri perché uso il 34% di ossigeno in meno. Le protesi di Oscar, a sentire gli esperti della IAAF, riuniti sotto la supervisione del dottor Peter Brueggemann, forniscono all'atleta un vantaggio non solo indiscutibile, ma addirittura quantificabile. Le CITA permettono una percentuale niente affatto trascurabile di risparmio energetico nell'atto della corsa, penalizzando in ultima istanza chi di questi apparecchi non fa uso. Per dissipare qualunque dubbio in proposito, Pistorius si rivolge a Hugh Herr, ingegnere biomeccanico tra i massimi esperti mondiali di protesi e affini. Lui stesso le porta da quando, nel 1982, in seguito a un incidente, ha subito l'amputazione di entrambi i piedi. Sono stato fortunato a incontrarlo. È il migliore su piazza. Innanzitutto è un grande sportivo, e poi, se si tratta di biomeccanica, è uno dei migliori cervelli che ci siano al mondo. Nella vicenda di Pistorius, Herr riscontra gli stessi pregiudizi che aveva subito sulla sua pelle quando aveva ricominciato a fare sport dopo l'incidente. La storia sembra ripetersi all'infinito. Se un disabile decide di gareggiare contro atleti abili, lo chiamano coraggioso. Ma non appena inizia a essere competitivo, viene accusato di barare. E il vero problema, secondo Herr, è la mancanza di accettazione da parte della gente di un corpo dotato di una componente artificiale. Ma le protesi di Oscar, nel suo caso specifico, non sono un accessorio. Non stiamo parlando di scarpe speciali per correre più velocemente. Queste sono le sue gambe. Senza Oscar può solo andare a carponi. Perché è così difficile credere che sia semplicemente un buon atleta? Vantaggio meccanico o svantaggio strutturale, poco importa. Oscar vorrebbe solo che si smettesse di blaterare e si iniziasse, in religioso silenzio, a correre. A million letters, they couldn't make me change my mind. I think I better run, run, run, run. I think I better run, run, run, run. Didn't catch me falling. Herr e la sua equipe sviscerano le motivazioni della sentenza della IAAF che ha squalificato Pistorius dalle competizioni internazionali. A livello biomeccanico hanno testato la forza che lui scarica sul terreno tramite le sue protesi e per squalificarlo sono giunti alla conclusione che le sue protesi gli restituiscono più energia di quella che lui rilascia, mentre per i normodotati la quantità di energia è sempre la stessa. Noi invece abbiamo scoperto che quella forza è minore del normale. Finalmente, il 16 maggio del 2008, arriva la sentenza del TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, cui Pistorius e i suoi legali hanno fatto ricorso. Il TAS esclude che sia possibile dimostrare un qualche vantaggio di Pistorius sugli atleti normodotati, perché non risulta che i supposti vantaggi emersi dalle analisi biomeccaniche possano in qualche modo compensare gli svantaggi con cui un atleta deve fare i conti correndo con delle protesi al posto delle gambe. Oscar è al settimo cielo. Non gli sembra vero di essere nuovamente libero di gareggiare, anche se per sua stessa ammissione questa storia ha inevitabilmente lasciato in lui un fondo di amarezza. A volte sembra che la gente non si renda conto di quanta fatica facciamo per allenarci e per migliorarci, ogni giorno. E non c'è nessunissimo vantaggio nell'uso di protesi come le mie. Anche Hugh Herr è entusiasta del risultato ottenuto. Non vedeva l'ora di dimostrare le falle nell'assurdo sillogismo della Federazione Internazionale di Atletica, sbugiardandoli con i loro stessi mezzi. Del resto, è una vita che combatte contro i pregiudizi e si nutre di essi, ribaltandoli con piacere alla prima occasione e utilizzandoli a suo piacimento. Alcuni dei miei colleghi del mondo dell'alpinismo mi hanno accusato di imbrogliare. Questa è musica per le mie orecchie, perché significa che hanno totalmente accettato il fatto che io sia diverso. Assimilare la diversità fino al punto di scordarla. Questo dovrebbe essere l'obiettivo principe di ogni campagna di sensibilizzazione sulla disabilità. Il senso dell'accettazione non risiede nella pietà, né tantomeno nell'invidia. Casomai può risiedere nell'ironia, come ci insegna la splendida atleta e modella Amy Mullins, anche lei amputata bilaterale. Che cosa significa essere disabili? Insomma, Pamela Anderson ha più protesi nel suo corpo di quante ne abbia io. E nessuno l'ha mai chiamata disabile. Ironia, coraggio, voglia di migliorare se stessi senza curarsi troppo dei giudizi altrui. Questi sono i segreti di molte persone disabili. Fra di loro c'è anche Oscar Pistorius, l'atleta che la sera del 3 luglio del 2008, finalmente riabilitato dal tribunale e rimesso nelle condizioni di gareggiare, tenta la qualificazione per le Olimpiadi di Pechino che si terranno quella stessa estate, nel mese di agosto. Oscar deve superare la barriera dei 45 secondi e 95 centesimi. Sa di potercela fare, ma in fondo non è poi così importante che c'entri o meno la qualificazione. È così giovane, di Olimpiadi ce ne saranno altre. Ed è per questo che Oscar, quando non riesce ad acciuffare quei 45 e 95, non ne fa affatto un dramma. Sorride mentre i suoi pensieri indossano le ali e volano già a Londra 2012. Il mio scopo non è conquistare i cuori di tutti, né convincerli della bontà delle mie protesi. Il mio scopo è arrivare a fine giornata e arrivarci correndo. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.